nascosto tra le pieghe dei vestiti, i cassetti che fingo di ignorare, li apro con cautela e raramente, per paura di non saper cercare. Ti tengo nel fondo di una notte, nel buio che dicono ai bambini, dove c'è il lupo che mi può mangiare, dove ritorno perché non posso andare. Tengo nel pozzo dei segreti, e a chi domanda potrò sempre mentire, voltandomi con occhi più discreti, fingendo l'abitudine del fare. Ci sono giorni che non uso mai, li ti nascondo al riparo dagli sguardi. Ci sono parole che non so provare, le ti nascondo per dimenticare. Segreti racchiusi tra le mani, li guardo spiragli tra le dita, penso al silenzio di oggi e di domani, disegno il vuoto da quando sei partita.